Italia in controluce. The flag of United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. The English is very good. Please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture, landscapes, art, history, cities. Force for what they did today, but I prefer that my chief tell in English what we do, what we. Oh, la rifacciamo tutta, perché la posso fare anche meglio. E ne siamo sicuri che l'ex ministro La Russa potesse fare di meglio. Non abbiamo resistito dal farvi riascoltare l'inglese di alcuni nostri politici, anche se bisogna dire che, ad onor del vero, ultimamente il governo dei tecnici si è abituato bene da questo punto di vista, a cominciare da Monti, che insomma ha sfoggiato in diverse occasioni un inglese davvero perfetto. Sì, perché di inglese parliamo questa mattina di Italia in controluce. Il fatto l'avete forse già letto sui giornali questa mattina: il TAR ha bloccato il progetto annunciato lo scorso anno. Dal 2014 alcuni corsi delle lauree specialistiche e dei dottorati si sarebbero dovuti svolgere solo in inglese, questo al Politecnico di Milano, per preparare i nostri studenti ad un ambiente internazionale, ci aveva raccontato il rettore del Politecnico Giovanni Azzone, che è stato nostro ospite a questi microfoni e che tra l'altro oggi invece deve essere davvero molto arrabbiato perché non rilascia interviste e dice che vuole aspettare la riunione del Senato accademico del 3 giugno prima di parlare. Della serie meglio contare fino a 10 prima di parlare. Un'occasione persa dunque quella del Politecnico, è la domanda che vi facciamo, vogliamo sapere la vostra opinione, se volete potete scriverci un sms al 349-238-6666. Il ricorso era stato presentato da un centinaio di professori del Politecnico di Milano. Il TAR ha dato loro ragione. La scelta dell'inglese esclusivo, si legge nel testo, che peraltro fra poco potrete consultare anche sul nostro sito internet radio24.it, dunque incide in modo esorbitante sulla libertà di insegnamento e sul diritto allo studio. Il nostro ospite di oggi, Emilio Matriciani, del Dipartimento di Elettronica e Informazione e Bioingegneria al Politecnico di Milano. Vi sentite lesi? In che cosa vi sentite lesi nella vostra libertà di insegnamento? Buon pomeriggio, ma innanzitutto non è solo la libertà di insegnamento. Vorrei precisare che il Politecnico, o meno il gruppo dirigente del Politecnico, lo scorso anno ha preso una decisione sciagurata, che è quella di obbligare a tenere in inglese tutti i corsi, non alcuni, tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato. Noi al Politecnico da anni teniamo alcuni corsi in inglese e molti di noi sanno benissimo parlare un inglese tecnico, non è questo il problema è l'abolizione della lingua italiana negli insegnamenti superiori. Non avremmo, la nostra preoccupazione è quella di una... Dice lei, va bene l'inglese, però non soltanto l'inglese, lei dice l'esclusività è un po' eccessiva. L'esclusività dell'inglese è la proibizione della lingua italiana, naturalmente del francese o del tedesco per esigenze particolari. Sentiamo... Dobbiamo parlare solo in inglese, parleremo da handicappati ad altri handicappati, perché anche se conosciamo l'inglese tecnico, insegnare in una lingua che non è la madrelingua, non è efficiente per niente. Certo. Matriciani, sentiamo che cosa ne pensa su questa cosa il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, che stamattina è stata nostro ospite ai microfoni di Simone Spezia. Tra l'altro la Carrozza che ha detto ci vogliono più soldi alla scuola pubblica oppure io me ne vado, eh? Quindi insomma parole dure quelle della Carrozza ai microfoni di 9 in punto. Invece su questo punto specifico, sull'idea del Politecnico bocciata dal TAR, sentite cosa ha detto. Ma io so che ci sono alcuni corsi specialistici, quindi non sono, si presuppone che la lingua italiana sia già ben conosciuta quando uno arriva alla magistrale del Politecnico a studiare delle materie molto specialistiche. Offrire corsi in inglese significa mettere gli studenti in grado di entrare nel mercato del lavoro nazionale e internazionale, perché guardi che nei luoghi di lavoro dove andranno questi ingegneri, anche in Italia, dovranno sapere perfettamente l'inglese, maneggiare perfettamente il linguaggio tecnico nella lingua inglese, anzi dovrebbero sapere oltre all'inglese possibilmente anche un'altra lingua. Quindi le sentenze si rispettano, però lei è dalla parte del rettore. Però lei è da... Io sono il ministro dell'istruzione del governo italiano e quindi non posso che rispettare le sentenze, però capisco molto bene il rettore del Politecnico, anche perché i soldi, i finanziamenti scarseggiano, dire devi offrire un'alternativa in lingua italiana e in lingua inglese sembra facile, ma poi nella pratica devi trovare un professore che tenga un corso in inglese e uno in italiano, e quindi diventa veramente difficile. Quindi anche qui secondo me il dibattito sull'importanza della lingua ci dovrebbe stare sull'investimento sulle primarie, sulle scuole secondarie sicuramente, per dare una giusta base di cultura umanistica in lingua italiana e conoscere bene la cultura e la lingua italiana. Poi via via che gli studenti si specializzano e devono entrare nel mondo del lavoro dovrebbero sapere e padroneggiare e studiare in una lingua straniera serve a padroneggiare la materia, in modo che poi quando si trovano a un interview per trovare un lavoro sanno parlare delle loro materie perfettamente anche in un'altra lingua. Sa questo che com'è importante per i giovani laureati italiani? E questo era il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. Mentre arrivano i vostri sms al 349-238-6666, scrive Gino da Milano, anche i tassisti parlano inglese, il Politecnico no, siamo un paese un pochino arretrato. Un altro ascoltatore invece da Reggio Emilia dice che occorre creare giochi al nido inglese, quindi cominciare davvero da piccolini, solo così avremo gente bilingue. Matriciani ha sentito il ministro, non ci sono i soldi per corsi sia in lingua inglese che in lingua italiana. Il ministro, perché l'obbligo della lingua inglese non è alcuni corsi in lingua inglese, poi lo scopo del Politecnico, la missione che il Politecnico ha è quella di insegnare l'ingegneria, l'architettura, il design. Vede, negli anni passati i nostri laureati, quando sono andati all'estero, sono sempre stati apprezzati, non perché sapessero parlare l'inglese in modo corrente così, ma perché conoscevano l'ingegneria. L'inglese tecnico lo hanno imparato in 6 mesi, non è questo il punto. Il punto è di laureare ingegneri, architetti, design che non conosceranno più la terminologia italiana. Come faremo ad avere gli insegnanti poi per i licei, per gli istituti tecnici? Questi non parleranno più la lingua italiana, avremo anche una popolazione maggioritaria che non conosce le parole tecniche. Oggi, proprio oggi, che bisognerebbe invece comunicare la scienza, la tecnologia e anche l'economia a tutta la popolazione. Invece questa decisione, ora si dice anche ma non troveranno lavoro o devono lavorare in un ambiente internazionale, guardi, noi conosciamo l'inglese, lo possiamo parlare, io perfettamente lo parlo a livello tecnico bene, ma non è questo il punto è che bisogna conoscere la materia. Sa, insegnare in italiano è come, se mi passa la metafora, è come vedere un film a colori ad alta definizione. Insegnare in inglese, anche se noi conosciamo l'inglese tecnico e i nostri studenti chissà che cosa conoscono, è come vedere un film in bianco e nero, sì, sfocato, una pellicola vecchia. Matriciani, sentiamo insieme, mancano le sfumature, perché giustamente stiamo parlando di insegnamento, quindi bisogna sentire l'opinione di chi poi questo insegnamento deve riceverlo. Allora la nostra Mariana Balocco questa mattina è stata al Politecnico lì a Milano per sentire un po' che cosa ne pensano gli studenti. Al giorno d'oggi un ingegnere deve sapere l'inglese, assolutamente. Che poi i corsi siano totalmente in inglese per alcuni magari è penalizzante, per il semplice fatto che magari anche non l'hanno molto studiato al liceo, non sono mai andati in paesi anglofoni. A mio avviso la maggior parte non sono preparati a fare un percorso di studi tutto in inglese e molto probabilmente anche i professori non credo siano all'altezza di fare lo stesso programma in italiano e in inglese. Chi è interessato a farlo in inglese ne ha già la possibilità, se non l'ha sfruttata in questo momento, perché probabilmente non gli interessa. Si configura come una proposta un po' complicata perché ti chiede un livello di inglese abbastanza alto, perché i linguaggi devono essere specifici, non sono parole semplici. Sarebbe una bella opportunità per imparare la lingua. Vabbè, insomma, gli studenti la pensano un po' in maniera così non omogenea, naturalmente, ed è giusto così, però anche loro dicono, ma i nostri insegnanti forse hanno anche paura perché non sono in grado di insegnare in inglese, e lo scrive anche Marta, una nostra ascoltatrice, il problema è che non hanno docenti che sanno le lingue, hanno solo titoli sulla carta. Matriciani, anche questo è il problema? Con le lingue non vuol dire solo l'inglese, Perché noi abbiamo sempre tenuto, sono una decina d'anni che facciamo corsi in inglese e qualche volta anche in qualche altra lingua, perché solo in inglese? È questo che noi contestiamo, noi non contestiamo il fatto che bisogna conoscere l'inglese, noi lo conosciamo l'inglese tecnico, non è questo il problema, noi contestiamo il fatto che bisogna usare solo quella lingua, cioè se in una facoltà nostra c'è l'esigenza di fare un corso in spagnolo, non lo possiamo fare, o un'esigenza di fare un corso in tedesco, non lo possiamo fare, dobbiamo solo siete farlo contro in lo strapotere dunque dell'inglese. Enrico scrive, ragione Matriciani, inglese deve essere declinato opportunamente. Vabbè, Matriciani, la ringrazio, grazie al professore del Politecnico di Milano che insieme a molti altri ha voluto che il TAR bloccasse questa idea che dal 2014 venisse insegnato, alcune materie venissero insegnate solo ed esclusivamente in inglese. Ringrazio Fabio Cantadore in regia. Maria Piera Ceci vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì.